Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. This is Carmen Ross. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Ancora Radio Sandonà sui 102-200, bentornati a Now Boarding, seconda puntata. Ciao Riccardo, bentornato. Buonasera, ciao Checco, grazie. Come stai? Oh, bene io. Te stai bene? Bene, bene. Dai, siamo in gran forma. Sì, grazie. Siamo partiti, il più è fatto, dicono. Direi anche di sì. Bon, dai. E quindi da Copenaghen, adesso insomma della scorsa puntata ci spostiamo. Giusto di un 2-3 mila chilometri. Sarà, sì, rimaniamo in Europa comunque. Benissimo. Cosa dici? Beh, direi che è cosa buona e giusta, come ha detto qualcuno una volta. E potremmo anche cominciare effettivamente. E introduciamo, una canzone. Sì, dai. Vediamo se si riesce a capire da sta canzone. Mi sa che è un po' troppo scontato. Sì, come forse è un po' più facile dell'ultima volta. Andiamo? Ok, prego. Vai. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto make you. Miracle sensation. My guiding inspiration. Barcelona, such a beautiful horizon. Barcelona, let your Freddie Mercury con Barcellona, troppo facile stavolta, Riccardo. Pelle d'oca però, eh? Sì, sempre, sempre. Gran pezzo che ci introduce appunto la città della quale parleremo oggi, giustamente, no? Esatto. Barcellona. Barcellona. Detta anche Barcellona in castigliano, catalano, non so come si dice, adesso lo chiediamo. Qui abbiamo Marco. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Marco, in diretta, benvenuto nel nostro studio. Ciao Marco. Grazie di avermi invitato. Ah, di che? Puntata in carne ed ossa questa, non, sì, sì. Non tramite Skype. Non tramite il nostro amico Skype. E lo abbiamo qui, quindi questa sera diciamo che lo trattassiamo anche, no? Ufficialmente, tanto al massimo vengono fuori un po' di botte, però. Infatti. Vabbè, dai, speriamo bene. Siamo vaccinati, no? Comunque Barcellona si dice Barcellona. Barcellona, catalano e castigliano sono uguali. Barcellona. Ok, scusa, dai, vuole fare il figo, eh? Sì, no, no, d'altronde è la verità. Può permetterselo, dato le cose che ci racconterà più avanti. Bene, cominciamo subito con il terzo grado, direi. Visto che fa il figo, mettiamolo alle strette. Lo castighiamo subito. Grazie. Età? Età 45 anni. 45 sì. Bene, esatto. Allora facciamo così, facciamo una cosa simpatica. Visto dai, che la sa parlare abbastanza bene, direi che ce lo dice prima in italiano e poi mi vergogno ti vergogni. Dai, da dove vieni? Allora, da dove vengo? Da Mestre, Venezia. Adesso vivo a San Donà da un paio d'anni, da quando sono tornato da Barcellona dopo 11 anni. Dopo 11 anni, quindi sei partito nel... Partito 15 ottobre del 98 e tornato 31 luglio 2009. Ah, proprio le date. Ma, sì, sì, le date ce l'ho a mente, ho una buona memoria. Nascita e morte, direi. Facciamo due conti, fanno 11 anni. 11 anni, detto, no? Sì, mancano, aspetta, agosto, dai, 2-3 mesi, 11 anni. Togliamo 2-3 mesi, sono 11 anni. Oh, fantastico, bene. Cosa hai fatto a Barcellona? Niente. Vacanza. No, sono andato lì perché mi hanno proposto nel 90... Vabbè, io premessa arrivo dal mondo delle auto, delle vendite, no? Arrivavo perché adesso ho cambiato. E niente, il mio titolare della ditta spagnola mi chiamò dall'Italia, mi chiamò già nel 97. Vieni qua, dammi una mano, patapim patapam. E ovviamente io non volevo accettare sta cosa perché vedevo il cambio, altra nazione, altra lingua. Fra l'altro io avevo già 32 anni, per cui insomma non ero proprio un piccino, un ragazzino. E poi nel 98 finalmente mi sono convinto per una serie di vicissitudini e niente, sono partito. E da là sono rimasto 11 anni. Ebbene sì. E avresti detto, mai detto di fermarti? No, io pensavo di stare là un mese, tre, un mese addirittura, sei, un anno, no. Mai avrei pensato, mai. Ma quindi perché sei tornato? Cioè stavi bene lì, no? Perché sono finiti, te l'ha fatto sono fare? Finiti i soldi. Sono finiti i soldi. No, scherzo, sono tornato per scelte mie di vita, insomma, privata. Mi sono sposato, ho avuto dei figli, il lavoro è cambiato, la crisi, Barcellona è cambiata. Non c'è la crisi, non c'è la crisi. Non dire che c'è crisi, per cortesia. Ah, non c'è la vero. Crisi. No, non c'è vero. non c'è la crisi. No. Anzi, no. Stiamo benissimo, non è vero. Ecco, sul fatto che Barcellona è cambiata, poi te lo chiederemo un po'. Sì, come sì. Siamo non curiosi bruciarci di subito questa tutto. Cosa. No, non vi bruciano. Bene, e rimarrai in Italia quindi? Beh, sì, io sono italiano 100%, voglio dire, sono tornato per stare qui. Dopo, se mi offriranno un lavoro in Australia, fra qualche anno, dipende, può anche essere, sempre. Dipende. Dipende? Sì, dipende. Anche questa tornerà. Questa tornerà. Anzi, dipende. Dipende. De che dipende. Dai, non bruciarci subito. No, basta, tutto, basta. Per cortesia. Volevi chiedere qualcos'altro? Oh, è una figata, però mi sento benissimo in radio. Infatti, è una voce parecchio sensuale, no? Sì, parecchio sì, si notava. Sì. Infatti, per fortuna, già, senza dire per fortuna che non ci chiami l'arcigai domani, diciamo che no. I miei orientamenti sono diversi. Aspetta, che non capiscono male. Ci stiamo imbarcando in cose no. Discorsi difficilissimi. Esatto. Meglio presentare il prossimo pezzo, poi fai tu, va? Allora, consideriamolo un buen día. Un buen día, quindi sì. Un buongiorno. Un día, un bonito día. Ok, scusaci. Prego. Lo splaneta. Puntualizza. Sì, prego, dai, vai avanti, grazie. Por la ventana. Chi non l'avesse capito, erano Los Planetas con Un Buen Día. Qualcuno conosce Los Planetas? Che cosa è? Lorenzo che ce l'ha consigliati. Ok. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Appunto, il signor Marco qui presente, grazie, voleva fare il figo e dire che era... ci ha detto, questa a microfoni chiusi, no? Microfoni spenti, ha detto, questa in catalano, aspetta che sentiamo che è in catalano. Alla fine in castigliano, ha detto una cazzata, quindi perdoniamolo. Va bene, grazie. Prego, introduciamo un argomento della puntata. Di cosa parliamo oggi? Vabbè, Barcellona l'abbiamo capito. Leggo testualmente qui, correggimi se sbaglio, com'è cambiata Barcellona dagli anni 90 ad oggi? Eh sì, visto che abbiamo questa opportunità, no, di avere una... Quanto tempo abbiamo? Quanto tempo abbiamo? Mezz'oretta. Mezz'oretta, bisogna stringere. Riassumere vent'anni. La domanda è, com'è cambiata Barcellona? No, no, fermo. Ah, prego, scusa, scusa. Scusa, abbiamo capito che sai, però, tranquillo. Potrei cominciare io? Prego. Posso? Marmolina. Grazie. Arrivi a Barcellona, come la trovi? Cosa vedi? Arrivo a Barcellona... Chiudi gli occhi, dai, fatti il solito viaggio mentale. No, arrivo a Barcellona in ottobre del 98. Beh, insomma, città stupenda, magnifica, incredibile, mare, montagna, un'ora, scusate, di strada. Bellissima, proprio stupenda, stupenda, stupenda. E arrivo, chiaro, metropoli, da Mestre. Io arrivavo da Mestre, per cui Mestre è fatta 100.000 abitanti. Sono andato lì, sì, circa. E parliamo di 3 milioni. Barcellona, centro, il casco antico, come si chiama, fa circa 1.800.000 abitanti, però tutti le varie comuni che comunque sono alrededor, si dice in spagnolo, cioè nel cerchio vicino. Paesi, comuni satelliti. Sì, tipo comuni limitrofi, sì. Arriviamo quasi a 4 milioni. Fra l'altro anche lì c'è una disputa perché ci... Hai sono moltissimi. Niente. Eh sì. Ci sono moltissimi clandestini immigrati, che questo è uno dei problemi grossi di Barcellona, non registrati, dicono circa 7-8 milioni. Sì, è proprio un problema. Sono una di Piave. Sì. Passarella, Cesanova e Musetta. Sì, sì, è una città molto grande. Stiamo parlando di comunque di un'area di circa 40-60 chilometri, insomma, stiamo parlando di una realtà molto, molto grossa. Grandissima. Chiaro? Sì. Sì. Città bella, stupenda, caldo, sole, sempre primavera, freddo, giubbotti, tu non sai cosa sono, per cui arrivo lì. Se ho ben capito, se ti conosco un po', non sapevi cos'erano, ma negli anni hai dovuto metterli. Vabbè. Il clima è cambiato un pochino, dai. Il clima è cambiato, insomma, no, sì, comunque è una bella domanda questa, perché i primi anni secondo me era più caldo. Nel senso che io appena arrivato, sarà che io arrivavo dall'Italia, dal Veneto, ripeto, di Mestre, e per cui dove qui in ottobre più o meno fa freddo, incomincia a far freddo, lì fino a novembre vai in giacca o comunque in un gilet e al massimo una sciarpa. Sì, no? Poi diciamo che appena arrivato eri abbastanza caliente, quindi sì, sì. Di freddo non ne fattivi tanto. Sì, è vero, è vero, quello è vero. Però comunque il clima è la prima cosa che mi ha colpito, sì, senza ombra di dubbio. E poi la gente, ovviamente, anche se i catalani, la gente di Barcellona appunto è catalana, non è la Spagna, Barcellona non rappresenta la Spagna, rappresenta la Catalunya, in quanto capoluogo di provincia, sì, sì. Uno stato a sé, vogliamo dire, una regione. Sì, vogliamo dire, c'è più una regione autonoma con un suo statuto tipo il nostro Trentino o Friuli, per cui ente autonome, sì. Le tasse, molte tasse restano lì, eccetera eccetera. Sì, dai, diciamo che Barcellona is not Spain, potremmo dirlo. Cioè è sempre Spagna, anche perché ci sono molta gente del sud, e le fabbriche erano tutte quante lì negli anni 60, anzi forse 50, arrivavano dalla dittatura, Francisco Franco, 40 anni di regime, non potevano parlare catalano, se erano in più di 3 persone venivano picchiati dagli squadrones, carabinieros, o sì, comunque come si chiamavano, eccetera, per cui molto castigati negli anni, tanto che adesso la città tuttora, qualsiasi cosa tu faccia, dalla metro ai mezzi pubblici, hanno la scritta o in castigliano e soprattutto in catalano. In catalano. Sì, adesso. Qui adesso si fanno una sorta di rivalsa, insomma. Sì, adesso non la fanno sentire molto queste entità, chiaro, catalana. No, chiaro, non gli sembra vero adesso che possono avere i libri, la cultura, il teatro, il cinema, tutto in catalano. Tanto che forse in certi locali è anche bandito forse il castellano addirittura. Sì, sì, sì, sì. Ci credo locali di più locali più esatto, un sì, po' più nei circoli, carte. No, sì, dove giocano a domino, dove battono le carte, nelle osterie nostre praticamente. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tra l'altro sono stato a Barcellona e ce ne sono parecchi, è pieno, è pieno. La parte quella antica, la Rambla, il Barrio Gotico, il Paseo de Gracia, il Barrio de Gracia, è pieno di sti localini qua. La vai a fare le tapas, la cerveza, la clara, tutte le cose che bevi qua. Cerveza e birra, per chi non lo sapesse. Le tapas sono dei crostini, vogliamo chiamarli sono crostini, i bruschettini, cicchetti. No, fermi, sono i nostri cicchetti. I cicchettini. Che sì. Poi i nostri cicchetti sono più buoni. Sì, tra l'altro. Invece da straniero sei riuscito un po' a mischiarti con i catalani? Anche... Beh, ecco, questa è una bella domanda. Il catalano è molto chiuso. Assomiglia un po', io non lo so, ai nostri montanari per certi versi. Anche uno non se l'aspetta, no? Dice, va a Barcellona, mi trovo tutti solari, lì. No. La gente, gli autoctoni, quelli del posto, proprio i catalani, che arrivano da papà catalano, nonno catalano, sono molto chiusi. Quando tu fai amicizia con un catalano che si dice catalano, dopo vieni a sapere o conoscere nel tempo che magari il papà è andaluso, la mamma è di Bilbao, il nonno era di Santander, per cui un po' come i nostri meridionali che venivano qua al nord da noi in Italia a lavorare, tutto lì. Ecco. Molto molto più aperto lo spagnolo del, sì, catalano. Sì, sì. Ma quindi tu sei arrivato lì nel 98, sì. Sei nato via nel 2009. Sì, 11 anni. Cos'hai notato? Domanda che può avere mille risposte, come averne una sola. Cosa hai notato di diverso fondamentalmente quando sei partito e quando l'hai lasciato, a parte le lacrime tante che hai versato? Cosa ho notato? Vabbè, una città a livello urbanistico eccezionale, organizzati, pulita, e in questi 11 anni è cambiata molto. E poi io, fra l'altro, arrivando nel 98, non ho notato, come la vostra canzone in apertura, che appunto era la Barcellona, quella di Freddie Mercury e della Montserrat, che era per l'inaugurazione degli Olimpiadi. 92. Bravo. Nel 92 mi dicevano i nostri miei amici che avevano fatto una pulizia molto più grossa. Per pulizia intendo la delinquenza, la malavita, la droga, un problema enorme su Barcellona, perché Barcellona è un centro di smistamento droga a livello europeo, mondiale. Colombia, Barcellona, Napoli. Sì, cioè, ci sono i porti più grandi, Valencia, Barcellona, Malaga, sì, sì, arrivano, sì, tutti, sì, quanti là, insomma, praticamente. Dai, sì. Difatti c'è molta corruzione nella polizia, perché molti coprono, questo me lo dicevano i miei amici poliziotti, ovviamente. Beh, logico. È chiaro. E hanno magari fatto questa la tagliamo dopo. Sì. Ah, sì, la tagliamo. Sì. Prima che si taglino qualcosa. No, no, nel senso che c'è un problema, ragazzi. C'è una città che vive anche con la droga. E non tutti sanno che Barcellona, e tu hai fatto la domanda all'inizio, cosa è cambiata? Negli ultimi tempi i borseggiatori sono a migliaia, cioè è impossibile. Io tutti i miei amici italiani, e ne avevo parecchi, e amici di amici, Perché tu devi sapere che quando vivi all'estero, a Barcellona, ti chiamano: ah, arriva l'amico di mia cugina, arriva il fidanzato, dove hai? Hotel. Allora devi dargli gli hotel dove spendi poco, ma dei ristoranti dove mangi bene, devi dargli le discoteche, i posti per andare a donne, cioè devi dargli fermo, tutto. Fermo. Riprendiamo il discorso delle andare a donne dopo. Ti interessa? Interessa. Dipende. A microfoni spenti. Sempre dipende, a microfoni spenti, appunto. Okay. E a proposito di discoteche, possiamo partire con un pezzettino che ci ricorda un po' la movida, che sarebbe madrilegna, però a Barcellona. No, anche a Madrid. Barcellona c'è la movida. Hai mucha movida. Scelto da Marco proprio questo pezzo. Ah sì, questo è il mio, vero? Dai, vuoi presentarlo tu? Visto che è un passato radiofonico, no? Ah sì, questa è bellissima, questa mi ricorda tutte le serate a Barcellona. Cada vez que te veo, e cantano i Negro Can. Non è una bestemmia. Non so se hai notato, Riccardo, che l'ha presentata meglio di come normalmente presentiamo noi le canzoni. Ma è anziano lui. No, ma io è il DJ che è in me. Che a volte ritorna. Vale sta cosa. Sì, tra l'altro ci ha anche appena ricordato che non è la versione originale, ma è la versione più da disco. Continua a fare il figo, non mi piace questa cosa. È la versione dancing, confermo. Abbiamo insomma scelto perché questa. Perché no, non vi spiego, perché quella originale, tu ballavi con la ragazza, no? Infatti, cada vez que te veo, proprio era una canzone che tu approcciavi la spagnola, ovviamente, no? Questa comunque era quella discoteca carina, molto bella. Sì, tra l'altro, cosa significa grazie. Ogni volta che ti vedo? Può essere. Cada vez que te veo, ogni volta che ti vedo. Lo sai a memoria? Me acuerdo, sì, lo so. Dai. ci dici la prima strofa, quanto la prima volta che ti vedo? Ogni volta che ti, ogni volta che ti vedo mi ricordo di te e poi va avanti. Sì, le solite cazzate che si dicono una quando la, sì, la trovi. Ma poi la lei cantava che è su una spiaggia con la birra a vidrio, cioè praticamente con la bottiglia di birra che beve. In Spagna bevono tutti, molto. Cerveza. Sì, infatti, infatti da ricordare che quando andrete a Barcellona, andrete in spiaggia, sarà pieno. Qui abbiamo gli ambulanti che ci vendono bracciali, collane, borse, passano e fanno cola, cerveza, acqua fria, acqua fria. È vero. Passano questi frighetti e ci sono anche quelli che sono inventati che girano sulla schiena con una cisterna di mojito. Questo non lo consiglio molto perché io l'ho preso una volta e il mal di pancia il giorno dopo è un po' sporco, un po' sporco. È pesantino. Il top. Bene, possiamo riprendere? Sì, dai, il discorso di prima anche forse era un po' interessante. Dicevi anche questa, cioè, che un po' un aumento della criminalità, sì, forse anche un po' nascosta, no? Sì, soprattutto quel famoso il cambiamento che prima avevate chiesto. Ad esempio, uno dei cambiamenti era la delinquenza, ripeto, dal 92 hanno fatto pulizia e questi me lo dicevano le mie amiche poliziotte. Fra l'altro, la polizia in Catalogna è cambiata e si chiama Mossos de Squadra e hanno proprio la polizia sua catalana, che è un corpo riconosciuto dallo Stato. Scusi, queste, ti interrompo, prego. Anche lui è l'amica poliziotta. Sì, difatti erano tutte donne, fra l'altro, devo essere sincero. Non ho conosciuto un poliziotto uomo, è vero. Chi ci ricorda? Le mosse di squadra, tutte no, e anche molto belle. Io tutte le chiamavo, vestite da poliziotte. Ma sai come le chiamavo io? Charlie's Angels. No, sì, te lo giuro. Una era mora, una bionda, una rossa, te lo giuro. Ci fidiamo? Ecco, sì. Tornando alla domanda, loro mi dicevano, e poi questo lo sapevo perché succedeva a tanti miei amici, che ci sono molti berseggiatori, i delinquenti, anche molti dell'est, ad essere sincero, oppure i gitani, quelli che vivono nei barri, nei quartieri più malfamati, più degradati, eccetera, che vanno lì e rapinano proprio, cioè rubano le borse, rubano le carte di credito, cellulari, telecamere, molto. Negli ultimi anni io questa cosa qua l'ho vista veramente esplodere. Cosa che però non ci viene riportata... In parte sì, perché comunque loro tendono a star zitti. Barcellona è una città che vive col turismo, forse la prima entrata proprio a livello di soldi è proprio il turismo. Sì, quindi chiaramente non vogliono rovinarsi la fonte di sostegno. Chiaro. Una delle principali. Sì. Ascolta, parlavi dei vari barri, quindi dei vari quartieri. C'è un grandissimo afflusso di stranieri negli ultimi anni molto, a Barcellona. Molto. Si sono messo, diciamo, ognuno si è preso il suo quartiere o è diventata una città... Ma guarda, allora, gli stranieri a Barcellona sono di due tipi. O gli stranieri che lavorano per ditte grosse, multinazionali, con tanti soldi, per cui stranieri che hanno tutti gli attici. Dovete sapere che Barcellona, città appunto praticamente suddivisa nella parte del mare, che è la parte bassa, per cui Barceloneta o il Puerto Olimpico, eccetera, e dopo va su in salita fino ad arrivare a Montjuïc, che è la collina, il Tibidabo, che è un'altra collina, dove c'è fra l'altro Domini, ci sono dei locali bellissimi, tu Domini tra la città, e ci sono le parti povere e ricche. E ripeto, tanti stranieri con tanti soldi, quelli che prendevano 3-4 mila euro, io parlo di amici miei ovviamente, per esperienza, io queste cose, ragazzi, le dico per mia esperienza, non perché l'ho letto. E loro allora si permettono le case belle, per cui hanno auto di lusso, e allora lì entrano nel tessuto sociale del catalano, perché comunque lavorano con i catalani. Altri stranieri, e poi comunque possono permettersi anche di uscire tranquillamente. Un tenore di vita ovviamente diverso, più alto, molto più alto. Lo straniero che dice che tu prima mi chiedevi, probabilmente lo straniero che per noi è l'extracomunitario, loro hanno il problema degli extracomunitari, ce l'hanno con tutto il Sud America, perché la gente del Sud America va lì perché la lingua è la stessa. Sì. Vabbè che in Catalunya si parla il catalano, però la lingua è c'è lo spagnolo, hai capito? Vanno lì perché loro hanno Ecuador, Perù, Cile, Venezuela, Colombia, meno brasiliani perché comunque il portoghese è simile, ma insomma meno. E loro hanno questa gente qua che va lì e lavora per poco o niente. Cioè, sì, sì. Allora per cui c'è lo straniero, io lo dico di serie A, per cui quello che lavora benestante, con la giacca e la cravatta la mattina, con la macchina di lusso e nel quartiere di lusso. E poi c'è una miriade, forse molto di più, che non fa testo, di migliaia, migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di stranieri, come mi stavi chiedendo tu, proprio che sono veramente, lavorano per poco o niente, sì. Tutti in nero, che lavorano molto in nero, perché anche lì assumono poco. Allora quelli, dico, il Barcellona, la vera Barcellona è fatta da questi ultimi che sto dicendo, nei vari bari, come tu mi chiedevi, Barrio Cino, il Barrio Gotico, c'è un barrio addirittura dove adesso stanno, quando sono andato via io nel 2009 c'era uno scandalo, cadevano le case, si chiama il Barrio de Carmen, e lì proprio veramente le case si stavano sgretolando. Però anche quindi lì, se dovete prendere una casa in affitto non andate al bar, no assolutamente no. Però vedi, è poco turistico, no? Perché comunque tu entri, delinquenza, droga, brutta gente, lì il turista proprio non ci arriva, nelle cartine che tu vedi, no, dei ragazzi che arrivano lì. Io vedevo turisti italiani, non esiste, non c'è, no, non certo c'è. L'italiano, diciamo, che va in Rambla, allora, l'italiano in Rambla lo portano in Porto Olimpico, sì. alla sera vai nei locali del Porto Olimpico, non va nei locali dei catalani perché non ci sono nelle guide. Se vai devi avere la tessera, c'è molta selezione. Io quando sono arrivato lì mi sembrava i locali anni 80 qua da noi, dove tu avevi la lista, se non eri in lista non esiste, non entri. C'è ancora adesso, eh? C'è ancora adesso, sì, però sì, lì era molto più hanno questa distinzione, i catalani vogliono stare con i catalani, gli stranieri stanno con gli stranieri. Sì. ho capito. E poi riprendiamo questo discorso, no, Riccardo, che magari ti facciamo consigliare, perché è sempre bello quando ti sposti in un posto non trovarti, almeno secondo me, tra turisti. Sì, infatti è il bello, almeno anche concordo benissimo con te, perché andare da turisti alla fine credo che ci puoi andare con le scuole, andare a fare il weekend, ti guardi quei due o tre posti simbolici e poi stop, però al di là della retorica, uno va là. Va là una settimana, va là un mese per farsi la vita da figo, da chi sta lì, no? Certo. Beh, dai, allora la riprendiamo dopo. Intanto, altro pezzo, El Niño Gusano, questo, con Pontumente al Sol. Fermo, l'ha detto bene? No, malissimo, guarda, credo. Non ero molto concentrato. Allora, El Niño Gusano, sì, esatto. Gusano, sapete cos'è il gusano? No, cos'è? Lo so, è un po' brutto, è il verme. Ah, okay. Il piccolo verme, esatto. Quindi vi facciamo ascoltare il piccolo verme. No, dai, fa brutto in italiano. Però è vero, il gusano e il verme. Andavo a pescare con il gusano. Ah, ok, prego. Viene a pescare con noi, ci manca il verme. Esatto. Ci manca il gusano. Sabría ver. parlavamo di Porto Olimpico prima, no? Eccoci qua. Eh sì. Eccoci. Parlaci un po', dai, come ci faceva a scuola? Parlaci un po' del Porto Olimpico. Allora, Porto Olimpico... Come funziona? Cosa succede? Cosa si fa? E quanto si beve anche? Se si può. Beh, lei si beve molto, sì. Beve, è nato nel 92, ovviamente con le Olimpiadi, come avete fatto, ricordavate con la canzone iniziale. Praticamente era una darsena sul mare, e lì è stato fatto il Porto Olimpico proprio per le Olimpiadi, con l'accesso alle barche, dove da lì si discutevano tutte le gare di vela, windsurf, tutto a che fare con il mare. Sì, sì, sì, sì. Ecco, da non confondere con il canale olimpico dove hanno vinto gli A Bagnale, fra l'altro, che era vicino dove vivevo io, però lì è vicino a Sigges, per cui in altra parte. È uno serio questo, le sa tutte. Beh, c'ho le sa tutte, sì, ragazzi, con tanti anni, normale. E come funziona? La sera adesso sì. Si è trasformato? Sì, adesso sì, si è trasformato, per cui dopo le Olimpiadi hanno fatto tutti i bar, tutti i Ciringuito, che sono in fronte spiaggia, i chioschetti, sì, i famosi disco bar spagnoli, dove i ragazzi non pagano l'entrata, se vuoi bevi, se vuoi non bevi, dopo tot consumazioni il famoso ciupito, ti invitano a questo ciupito che poi è la pallottola italiana, sì, o lo shot inglese. A me mi hanno fregato una volta, in realtà mi hanno dato tipo succo di frutta. Sì, è un classico. Sì. Beh, quando ti vedono bello borraccio vuol dire ubriaco. Era proprio l'allocco da fregare. E da lì ti offrono queste cose, tutte queste ragazze nude, le famose cubiste, no? Sono nate penso in Spagna probabilmente, no? E anche quel tipo di locali là, non lo so. No, una cosa giovane. Che non sa, no, non lo so, perché io l'ho visto lì, l'ho visto a Ibiza, ad esempio, che mi dicevano che era Natale a tutta sto i famosi disco bar erano, sì, a Ibiza, che poi le Baleari sono di fronte a Barcellona, sì, e Barcellona. Diciamo ciupiti li bevono, la birra, sì, la bevono, la cerveza, no, è famosa per qualcos'altro. Sì, sì, c'è un liquore più famoso e più storico, che è l'absentio, io non ho mai ben capito la pronuncia. In italiano è assenzio, comunque. Assenzio. Sì. Quello è un liquore che io, fra l'altro, una sera lo provai, ho preso proprio una botta, e lo provai proprio su un locale storico, si chiama Bar Londres, che è di fronte al, o parallelo comunque alla Rambla, ed è il bar storico dove andavano Gaudì, andava Miró, tutto il movimento della gente di cultura, degli artisti, no? Per cui parliamo fine 800, primi 900, esatto. Gaudì, ricordiamo, l'architetto, Sagrada Famiglia, Casa Batlló, sì. esatto. E Parkwell. Parkwell, mamma quella mia. Quello è bellissimo, da andare. Molto bello, molto se bello. Mi confermi, vedi tutto. Bello, dai. bello. Parkwell è più di Miró, comunque. Ci sono, sì, i mosaici di Miró. Sì. Vabbè, okay, diciamo che Gaudì... No, non hai detto cazzata, perché comunque il movimento era quello. Gaudì, Miró, sì, tutta quella gente là, perché poi era una scuola di architettura seria. Molto, molto seria, che tuttora esiste. Sì. La Sagrada Famiglia la stanno continuando. Sì, infatti gli anziani che guardano i lavori sono a posto per altri, sì, 50 anni. A proposito, ha preso fuoco? Sì. Voi sentite una cosa, giustamente erano troppo avanti quei lavori, sì, no, torniamo indietro. Fermi, è andato il Papa, ho saputo che è andato il Papa, perché mi ha chiamato un amico mio, c'è il Papa, chi sta il Papa. Io ho visto la televisione e comunque ha preso fuoco, l'hanno sistemata perché arrivava il Papa. Ah. Ecco. Ritornando all'Assenzio, praticamente, sì, cos'è sto Assenzio? Vai su sto Bar Londres, che consiglio a tutti, e fra l'altro è anche molto più di gente, e si può ancora fumare, perché in molti locali, fra l'altro a Barcellona, a tuttora, con la legge europea che nei locali non si può fumare, in qualche modo riesce a fumare. Sì. E allora ti danno sta cosa che è bestiale, che è tipo un ciupito, ti mettono un tipo con un ferrettino, una zolletta di zucchero, che te la intingono, imbevono di questo absenzio, che tu dici vabbè, tanto insomma, io da buon veneto con la grappa, ma non esiste. Poi danno fuoco, fa un falò tipo un flambé, e tu devi berla spostandolo. C'è anche tutta una cosa che io, fra l'altro, due o tre volte andavo giù, cadde sta male. Sì, non ti dico, i nostri amici, no, che fai, cosa non fai? Insomma, praticamente la bevi, cioè, ma ragazzi, 90 rotti gradi è una bella botta. E la consiglio però da provare magari in piccole dosi. E questo è frequentato da catalani principalmente? Questo principalmente, sì, i primi anni in catalani, no? Dopo un po' più turistico. Negli anni, sì, lo vendevano molto, i tour operator lo vendevano molto. Fra l'altro una zona anche malfamata, perché c'è, cioè, vicino alla Rambla c'era una zona, un barrio abbastanza malfamato, un po' pericoloso, però adesso un po' meno. Quella zona lì è un po' calda, no? Sì, beh, quella è la zona più calda forse di Barcellona. Più calda, però c'è anche tanta polizia, ripeto, è tanto vigilato. Bisogna stare attento io lo dico, cioè di giorno ai borseggiatori, per la sera succedono poche cose, no? Mm-hmm. Parte fra di loro, magari le baruffe, eccetera. Però i borseggiatori sì, è piena. Barcellona è piena di borseggiatori. Beh, abbiamo avuto una bella idea, una bella, come si dice, panoramica della città con 10 anni, appunto, anzi di più, condensati in 3/4 d'ora. E quindi, Riccardo, mi sa che più o meno tra un po' ci dobbiamo lasciare. Andiamo, vamos a casa. Se qualcuno vuole sentirsi questa puntata, come fa? Allora, va su. Vabbè, innanzitutto siamo su 102-200. Okay, esatto. E una è stata detta. Oppure abbiamo il nostro sito www.radiosandona.it, il nostro blog www.nowboardingradio.wordpress.com, e Facebook, più raggiungibile credo dalla maggior parte di voi, Nowboarding Radio, semplicemente. Oppure se avete qualche richiesta, qualche, non so, o volete anche partecipare raccontandoci le vostre esperienze, la nostra mail è nowboardingradio@gmail.com. che ecco, ci lasciamo. Sì, ci consigli qualche posto oltre al Bar Londres? Ma dite cena, dopo cena, after dinner, uno dei tuoi preferiti, serata tipo. Ah vabbè, io ho un ristorante bellissimo, aspetta che adesso, come si da chiama? Paco? No, Paco Alcalde no, che è la Barceloneta. Ce n'è uno bello che si chiama è rustico. Oppure eccolo qua, ce l'ho, Asador de Aranda. Fanno ce ne sono 3-4. Il più bello è in Tibidabo, che è una collina, quella che dicevo prima, che domini. Fantastico. Asador de Aranda, cocinillo, jamón, bellota, 4 estrellas, e sangria de vino tinto, de cava. Ah, ok, grazie. Con vista su Barcellona. 45 euro e c'ho la provvigione. È un amico mio. Ecco perché. Ultima canzone, insomma, lo ripetiamo da tutta la puntata, scelta anche questa. Ah, da sì, te. Questa l'ho scelta proprio io, questa l'ho scelta col cuore, perché questa, Jarabe de Palo è il gruppo, dipende la canzone quando io sono arrivato e pensate che lì è stata in classifica circa 2 o 3 anni, cioè la cantavano fino assurdo. A 2000, assurdo, avrà venduto un sacco di... E lui, catalan, lui è cantante, Jarabe de Palo è il gruppo. E hanno preso un sacco di soldi questa canzone qua, e io quando la sento mi si apre il cuore proprio. Vediamo se riusciamo a fargli scendere la lacrimuzza. Sì, fazzoletto. Bene, allora. Dai, ci vediamo alla prossima puntata, il prossimo mercoledì, Riccardo. Certamente. Marco, grazie mille. Grazie a voi, buonanotte a tutti e grazie dell'opportunità. Grazie, ciao. Alla prossima con Now Boarding. Ciao. Blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que nos conozca. conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Todo depende.